Noi sembriamo uguali so per te. Amo tutto ciò che piace anche a te, ma vorrei fossi il vero te. Oh, sei speciale, scoprirai perché. Oh! Ah, madonna, io so che saremo amici, unici sempre.